mummificato. Menù, lista. E neanche questo, eh? Questo è quello di Fedora. Mentre SDA1 era la Debian, potrebbe essere la 8. Vediamo. C'è una partizione installata in GRUB? Sì. Questa perché? Perché questa me la mostra? Boh. Comunque adesso è in sola lettura. È questa, quella del primo menu che abbiamo visto all'inizio, ed è qua che dobbiamo andare a correggere le cose, eventualmente se sono state scombinate. Qua, istanza root, al posto di HD07, dopo aver fatto l'inventario e capito qual è la situazione, adesso dobbiamo andare a sostituire, basta al limite in questa istanza, perché poi dovremo correggere anche tutte queste, sì, possiamo farlo anche adesso, ma poi dovremo andare ad installare anche tutti i GRUB, se sono state interessate dai cambiamenti, anche Fedora, OpenGL, eccetera, oltre a correggere quel numero. Bene, dunque, corretto le cose qua, dobbiamo reinstallare il GRUB. Abbiamo visto che è la 7. Riguadagno la riga di comando, i privilegi di root, mi sposto magari nella directory media, vabbè. No, con la barra davanti. Media. Ecco, adesso è chiaro che è la 7 quella che fa capo e che devo andare a reinstallare. Il GRUB che devo andare a installare è della distribuzione nella partizione 7. Il comando GRUB install. Ah, un attimo, potrebbe la mia Knopix potrebbe anche non avere comando GRUB, ce la faccio lo stesso. Se io do SDA5, GRUB si trova nella directory bin. GRUB install, e così facendo è meglio, perché il GRUB della Knopix potrebbe essere di una versione diversa, e in questo modo vado ad eseguire proprio quello della partizione 7, che è quella originaria. Ecco, qua vi dico un paio di parametri che gli si può passare. No floppy, se non ce l'abbiamo, anche se non è necessario, visto, specificarlo. Comunque se c'è questo comando, perché non nascano casini. Un'altra cosa che gli si può passare è recheck. Un altro cambiamento che possiamo aver fatto è aver cambiato dischi, cioè aggiunto, tolto. Se gli si passa recheck, nell'installazione fa un inventario dei dischi, se è cambiato il numero, se fisicamente sono andato ad aggiungere o a togliere un disco, insomma. Installalo e gli vado a dire: vai a vedere che ti ho cambiato un disco. Ma quello fondamentale è meno meno root directory uguale media sda 7. Allora, e come ultimo gli devo andare a dire dove installarsi e gli dico dev sda e basta. Se gli dico dev sda e basta, significa il master boot record del disco sda. Root directory sda 7? No. Sì, root directory sda 7. Cioè, assumi come root quella della partizione 7. Prendi la partizione 7 perché quella è quella che ha il menu list del group che io voglio nel master boot record. Ah, che è un'altra, non è la 5 allora, è separata. Mi sono perso un pezzo, mi sono andato via, scusami. Ho detto all'inizio ho messo sda 5. Dove trova l'eseguibile? Ok, sì sì, sì. Qui sono in e deve essere, okay, okay, deve essere okay. La stessa, è giusto. Ah no, deve essere la stessa? Sì. No, però le messi separate, vado, una volta mette boot dall'altra parte. No, vado a prendere il group della partizione 7. Sì, sì, sì. Gli dico che la root se la vada a prendere nella partizione 7 e che si vada ad installare in sda. Okay. Solo che nel tuo caso allora era 5 da tutte due le parti, perché era la 7 era la... Ok, ok. Sì, vabbè. Basta che sia chiaro sì, okay. Il concetto, io mi confondo. Ecco. Dunque, un group install di questo tipo va ad installarsi, ripeto, nel master boot record del disco, del primo disco. Se invece volessimo installare, cioè quando invece vogliamo installare group all'inizio di una partizione, a group gliela si specifica, cioè dando una cosa di questo tipo, invece gli dico installa group non nel master boot record, all'inizio della partizione 5. Comunque, ipotizzato il casino che non parte più group, devo prima di tutto mettere a posto il master boot record e quindi prima di tutto farò un'installazione semplicemente con sda. Il parametro fondamentale che vuole il comando group install è dove andarsi a installare e può essere installato o nel master boot record di un disco. Potrei, se avessi SDB, se avessi due dischi, anche mettere SDB qua. Mi riferirei allora al master boot record del secondo disco. Quando non si dà un numero, insomma, ci si riferisce al master boot record del disco. Se si dà un numero, significa all'inizio di quella partizione. Quindi, se ho capito bene, con root directory tu gli specifichi dove andare a copiare boot, group, tutto. Sì, sì, praticamente dovrebbe in un list. E con l'altro parametro slash dev gli dici dove andare o sull'MBR o sull'inizio della partizione. Dove sì, sì, sì, proprio lui questo viene raggiato. Vorrei che fosse chiaro. Ah, boh. Usciamo da Knoppix e vediamo qualcosa da, per finire qualcosa d'altro che si può fare. Dunque adesso supponiamo di aver avuto quel enorme casino, di essere riusciti però a ricostruire il master boot record, per cui a questo punto, avviando la macchina, un menu mi ci si presenta e almeno un sistema operativo riesco a farlo partire. Quindi sicuramente Grub non mi darà più, non si impianterà più con un errore 22 senza mostrarmi una lista di sistemi da caricare, ma qualcosa del genere a questo punto salta, me lo dà, e questa prima partirà. Se non abbiamo fatto boiate tipo quella che ho fatto io, scambiato con 7, con 5, che non è difficile farsi di queste confusioni, almeno per me, insomma, se abbiamo fatto tutte le cose con ordine, questo ci compare e la prima parte. Allora, questo di E mi mostra praticamente la parte del menu list che riguarda lui. Se mi sposto, edit, mi mostra quello che riguarda Debian. Un'altra cosa che si può fare è premere C command ed entrare nella shell di Grub. Primo comando che si può dare è help, che mi mostra tutti i comandi che si possono dare. Allora, se sono in questa situazione in cui soltanto mi parte la prima, e supponiamo Debian, Fedora non partono, però io so in quali partizioni si trovano, dalla riga di comando gli dico che la root è quella di Fedora. Se so che Fedora è qua, allora anche qua vi dovete arrangiare, perché la tastiera non è quella italiana, qua dentro è l'uguale, è al posto dove è nella tastiera americana. Allora, se io so che Fedora è qua, abbiamo solo HD0, so che è nella partizione 5, e allora glielo devo specificare nel modo che ha Grub di identificare le partizioni. Gli dico che la root è questa. A sto punto posso andare a fare un ls, no, se magari ci metto uno spazio qualcosa cambia, no. Allora, posso comunque andare a specificare manualmente il kernel. Kernel, boot, barra, si intende partizione 5, cioè il kernel è quello che è nella directory boot grub, il kernel lo mette nella boot, non dentro Grub. Dentro Grub ci sono le cose di Grub. Facendo tab mi dà tutte le possibilità e mi dice, e mi dà i kernel e init rd, che sono quell'altro pezzettino per far partire Linux normalmente quando non ci si è ricompilati il kernel a mano. Comunque, queste due cose bisogna andargli a dire. Scelgo il più recente, ce ne può essere, facendo gli aggiornamenti in una distribuzione aggiunge kernel diversi, non è molto importante, ma insomma di solito gli si dà quello, l'ultimo, quello col numero più grande. VM Linux mi dà tutte le possibilità, 27, quello col numero più grande è 15 19 21. Sempre tab completa se non c'è ambiguità. Un'altra cosa che posso andare a che devo andare a specificare in TRD, che è quel pezzettino che viene sempre messo nell'avvio di Linux assieme al kernel, dove ci sono i parecchi driver, tanti di solito, praticamente tutti i possibili, in maniera che il boot non fallisca, perché deve montare la partizione di root all'avvio, deve montare la partizione e far partire il kernel, è la prima cosa che deve fare, quindi deve avere i driver di quel disco. Quindi di solito le distribuzioni forniscono un init RD, anche pesantino, che se uno si va a ricompilare il kernel da solo e specifica che tipo di disco ha fisicamente e il kernel sa che il driver è quello, non ha bisogno dell'init RD.